Radici di Grogna. Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Ben ritrovati sulle piratesche frequenze di Radio Plaza. 16 febbraio, quando sono le 15.07, Mr. Duster si riscalda e si ansia. Sa bene che dischi proporci. Ma noi oggi in diretta per una puntata nel nostro randomico calendario, in cui abbiamo deciso di ospitare Aishamina Sound System. Ovviamente l'effetto intervista è un effetto che contagia un po' tutti, quindi sulla tradizione stiamo chiamando tutte quelle persone scurnose, capito? La radio la usiamo proprio per tirare fuori Mario Irrassa, Mario l'Alburnio, la voglia. Cioè, mo Aishamina proprio è un paziente light. Thank you. Yeah. Radici di Gramigna 6, qui in diretta sulle frequenze di Radio Plaza, regia piena, come ci piace a noi, piena di amici abbandonati qui da altri amici, Crispino, Jarod, salutiamo Aldo e tutti gli amici di Castellammare, la famiglia Isciamina, un pezzo della grande famiglia Isciamina, Alice con le cuffie che dorme nel marsupio, insomma, tutto bene. La Gramigna, orribile infestante, incubo di tutti i contadini e gli agricoltori. Il blitz è scattato attorno alle 22 dopo un passaparola anche via internet. Una trentina di attivisti del centro sociale Gramigna, il più radicale. Tu tagli la radice in 10 parti, avrai 10 Gramigna. Tu sei un uomo come tutti gli altri. Ami il potere? Sì, magmaticamente. Sei pronto a cederlo? Ma le erbacce non esistono. Esistono le erbe. Che sta fa qui, l'usora Gramigna? Non lo faccio, sora Migragno, sapete voi, sora Grifagna? Io sono un politico, ho bisogno di indicazioni concrete. An albero del fichi, in un anno, cresce nui fichi. Manfrate, che ci cresce, a barba? Dici tu, sora Grifagna? E sora Gramigna, bisogna vedere quando piove si steppagna. Nella vigna la Gramigna è peggio della vigna. Caro Lunario Antelechia, oggi siamo nel mese di Allium, nel giorno 14 della prima ottimana di luna piena, che va ovviamente in luna calante. Cosa stiamo facendo oggi? Oggi stiamo mescolando il mais in questo bellissimo cassetto munito di comode rotelle. Se questi chicchi potessero parlare, racconterebbero gloriose vicende evolutive. Che cos'è questo miscuglio? Che cos'è? Lo possiamo dedurre da alcune bustine vuote lasciate all'aria infusa? Lo possiamo dedurre da altre bustine sapientemente ripiegate, sempre vuote. Lo possiamo dedurre da una sfilza di questi ecotipi che sono parte della nostra collezione raccolta in Orto Entelechia, a partire dallo spinato, passando dall'oax candiola e verde, fino ad arrivare ovviamente al perlato, in tutte le sue sfumature di bianco, di giallo e di violetto a volte. Passando anche per il marano, certamente. Ma attenzione anche per alcune varianti del perlato che incominciano a mutare in modo spontaneo verso nuove linee evolutive. È come escludere il cortiana, ovvero la popolazione recuperata dalla rete semi-urbana. È come non citare il meraviglioso rosso friulano in tutte le sue sfaccettature. Bene, questi mais erano questa mattina ben organizzati in buste sottovuoto, tipo queste, ovvero in queste qui dietro, aperte, svuotate, i loro contenuti sono stati suddivisi. Come si può vedere, ci sono due file. Facendo l'esempio con questo perlaceo mix, ce n'è uno per l'orto, un altro per il backup in freezer da tenere come scorta perché non si sa mai, e una terza parte, che è in realtà molto più abbondante delle prime due insieme, messo qua nel miscuglio. Questa operazione l'abbiamo fatta per ogni varietà, per ogni ecotipo, per ogni selezione di ecotipo e di varietà che è stato degno di nota, tanto da presenziare nella nostra scorta. Ma ci sono ancora molte sementi da processare, molte sementi da spiluccare, da vagliare, da prendere in considerazione. Ad esempio questa schiera di meravigliosi Flor del Rio con i loro carnevaleschi e caramellati ventagli cromatici. Ad esempio l'Arlecchino e il Black Mountain con la loro minuta e pungolata essenza. Ma ancora un tavolo in cui stiamo cercando di fare ordine in un po' tutte le varietà. Dovete sapere che all'inizio del XX secolo il botanico russo Nikolai Vavilov identificò alcune zone del pianeta come località di origine genetica delle colture. Li chiamò centri di diversità, sottolineando l'importanza della loro conservazione in quanto habitat originali delle piante domestiche e dei loro parenti selvatici. Molti di questi centri erano isolati da montagne, fiumi e laghi. Per questo motivo in tali zone l'agricoltura era rimasta immutata nei secoli. Erano insomma le vere e proprie culle dell'agricoltura, dove particolari piante erano state addomesticate per la prima volta. Col passare del tempo, attraverso una selezione operata sia dall'uomo che dalla natura, queste colture si sono evolute in nuove forme con caratteristiche diverse, denominate varietà locali. Tale varietà contengono molte varianti genetiche che consentono a ogni coltura di sopravvivere a ogni tipo di cambiamento climatico. A causa di tale diversità genetica, scienziati e coltivatori lungimiranti ne riconoscono l'importanza in un mondo il cui clima cambia rapidamente. Vavilov trascorse la sua vita raccogliendo piante e viaggiando verso luoghi diversi come l'Etiopia, l'America del Sud, il Giappone, come pure attraverso l'Europa e l'America settentrionale. L'Istituto Vavilov a Leningrado è stata la prima, la più grande, la migliore banca del seme del mondo, con i suoi 250.000 campioni di semi vivi nei luoghi dove vengono custoditi e nelle fattorie dove vengono coltivati. La totale abnegazione dei suoi dipendenti rappresenta tuttora un modello a cui ispirarsi. Alla fine dei circa 900 giorni di assedio di Leningrado, nel quale 600.000 persone morirono per le strade, anche 20 dei dipendenti della banca del seme dell'Istituto Vavilov morirono di fame. Quelli che sopravvissero si nutrirono di segatura e topi e tutto ciò che riuscirono a trovare. Il direttore responsabile della raccolta di riso del centro ricerca agricola morì nella banca del gene circondato da sacchi di riso. Erano persone che credevano realmente al detto che sarebbe poi diventato popolare. Queste risorse genetiche le abbiamo in prestito dai nostri figli. Thank you. Il terreno era interamente ricoperto da uno strato di plastica grigia che si estendeva dalla cima delle montagne fino al fondo dei mari. Un giorno Unzio trovò un seme dentro un baule dimenticato da secoli, l'ultimo seme rimasto sul pianeta. Cominciò a correre per le strade liscissime, mostrandolo a tutti come se fosse una lampada accesa. I computer diedero l'allarme. Un robot gigantesco individuò l'esaltato. In pochi secondi gli fu accanto, sollevò uno stivalone che pesava tonnellate e lo schiacciò. Il corpo dell'uomo, ridotto in poltiglia, perforò lo strato protettivo di plastica e affondò nella terra. Veicoli speciali ricoprirono la buca vomitando plastica grigia e il formicaio ritornò alla sua incessante attività. Ciò nonostante, sotto la grigia superficie, il seme germogliò fra i resti dell'uomo. Ben presto la terra si riempì di radici. Vegetali possenti e incontrollabili invasero le città, facendo esplodere il guscio che le rivestiva. Gli uomini riacquistarono la memoria. Era il bello di tutto, si ballava, si cantava, si beveva, si giocava. Qui nel 46 c'erano 100 giovani e un'ottantina di ragazze, c'era pieno. Qua c'era l'osteria, la vecchia osteria, qui c'erano le stalle, questa è la piazza. Qui si riunivano la sera i vecchi, tutti seduti a raccontare la giornata come era passata. Qui è stato uno smottamento, piano piano ha cominciato a tagliare un pochino la strada, a aprire un pochino una casa, quell'altra. Dopo piano piano ha aumentato, allora dopo le case hanno cominciato a diventare pericolanti e allora gli amministratori hanno cominciato a intervenire, a fare dei lavori, tanto per vedere se potevano fermare, ma visto che non si può fermare, hanno deciso di spostare il paese, di spostarlo qua. E io ho fatto la strada qua, io facevo il capocantiere, le case rimaste, quelle là, un po' derubate, così, no, l'hanno risistemate, d'estate vengono qua. Ma la cooperativa è quella che tiene in piedi il paese. Sia con i suoi meno di 42.000 residenti, cioè 7.000 in meno dal 2016, data di insediamento di Luigi Brugnaro, a rispondere lo stesso primo cittadino. Venezia è abitata per lo più da anziani che nel frattempo sono passati in miglior vita. Così stamane lo stesso Brugnaro. Ogni anno andiamo sotto la soglia dell'anno precedente perché la città è la città di anziani. Bisogna che la gente non muori più. Ho pensato di fare un decreto, faccio un divieto, allora ai cittadini anziani sappiate che da oggi è vietato morire. Primo cittadino che tra ironia e senso of humor analizza nello specifico il trend in atto in tutta Europa, dice, è dovuto al saldo tra chi nasce e chi muore. Il trend dell'invecchiamento è del paese, non è di Venezia, è dell'Italia. Se qualcuno non si è reso conto lo dichiariamo ufficialmente. Il paese Italia è uno dei paesi insieme al Giappone più vecchi del mondo. Perché non nascono i bambini, ma non da 30 anni. Così anche le attenzioni che si ripete. E quando emerge a una elaborazione dell'ufficio studi della CGA di Mestre su dati INPS e Istat aggiornata al 2022. Per quanto riguarda il Molise, i numeri dicono che a fronte di 100.000 occupati, le pensioni erogate ammontano a 124.000. Vediamo anche i dati riferiti alle singole province. In quella di Campobasso le pensioni erogate sono 87.000 a fronte di 71.000 occupati, mentre a Isernia gli occupati sono 29.000 e le pensioni erogate 36.000. La platea presa a riferimento è quella costituita da lavoratori autonomi, da dipendenti privati e da pubblico impiego. Il panorama è montuoso in genere, ma ci sono anche località sul mare, ad esempio Termoli, e poi capoluoghi di provincia come Enna, Nuoro, Matera e cittadine come Gela o Altamura. Quasi il 60% del territorio italiano si definisce area interna, ma i suoi abitanti sono solo il 22% del totale, cioè 13 milioni di 60 circa. È un'Italia servita poco e male in termini di istruzione, sanità, vie di trasporto e perciò sempre più spopolata e sempre più vecchia. Basilicata, Calabria e Molise sono le regioni con più anagrafi comunali che ogni anno registrano cali importanti di residenti. Ormai del resto è l'Italia intera a spopolarsi, ma non nella stessa misura ovunque. Isolamento e declino socio-economico si accentueranno perciò sempre più, specie al sud, ma non solo. Nella classifica regionale del più alto numero di comuni con più ultra ottantenni, dopo il Molise c'è la Liguria, poi l'Abruzzo. La disattenzione della politica alle aree interne non è un fatto recente, però, secondo gli esperti, come se abbandonare le periferie dello stivale fosse il prezzo della modernità. E non importa neanche che sia questa Italia di serie B a custodire spesso le più profonde radici dell'identità e della storia. Dunque, qua si parla di aree interne. Eh sì. Oggi per la rubrica Raccorti abbiamo scelto di introdurre un tema che per noi è molto caro, che è quello della conservazione dei semi antichi. Oggi, diciamo, la presentazione della rubrica Raccorti comincia con un inno alla Candelora, no? La Candelora che è appena passata, l'ora si è fatta, la luce è arrivata, la serra nostra è ancora tutta smontata, ma che fine fa la banca dei semi di popolazioni evolutive di cui siamo custodi? E questa, diciamo, è la domanda a cui abbiamo provato a rispondere anche eticamente, no? Attraverso il racconto suggestivo che faceva prima Francesco, ma anche a quello che vuol dire per noi con il racconto di Jodorowsky conservare le popolazioni evolutive di semi. Sappiamo che oggi cercano in tutti i modi di minimizzare le varietà di ortaggi, in generale di vegetali coltivabili geneticamente modificati in modo che siano anche fragili abbastanza da consentire, da garantire l'industria farmacologica estesa anche alla terra. E l'unico modo, come dire, per salvarci è veramente salvare i semi. Però sorge subito una domanda che ci collega direttamente alla rubrica successiva, che è: chi ci salva a noi? Chi ci salva a noi mentre noi salviamo i semi? Ma fa fino pure noi a... Eh no, di mangiare ratti non ne abbiamo voglia. Quindi, come dire, ci stiamo chiedendo anche questo, no? Chi fa una scelta radicale? Chi decide di lasciare la metropoli, di abitare le aree interne? Tutti quelli che decidono, insomma, di fare una vita più direttamente connessa alla terra hanno bisogno anche di una ricetta segreta, un modo per sopravvivere nel deserto delle aree interne. E rispetto a questo ci siamo posti una domanda: come si sopravvive nel deserto delle aree interne? Thank you. Allora, una piccola interruzione, breve interruzione per salutare gli amici venuti a trovarci da lontano. Abbiamo un piccolo Fabri timidino. Ma quando mai sei stato timido tu? Fabri, ma dici la verità, papà è venuto a controllare se lavoriamo bene. Ha mandato il partito, dici la verità. Le tue risate confermano. Radio Plaza in diretta, Radici di Gravini, solo grandi sorprese. I rifugi ci espongono, indirizzano a un luogo molto aperto. Da quel luogo si vede tutto di noi, degli altri, delle radici avvelenate e di quelle sane, della nostra costante ricerca del piacere e fuga dal dolore, della nostra tenera e sprovveduta ignoranza. Noi costantemente ignoriamo, neghiamo, ci giriamo dall'altra parte. Rifugiarci significa guardare fino a vedere in profondità e cambiare rotta. Nessuna visione è profonda se non porta a un cambiamento di rotta, a uno scampo che è deviazione dalla strada percorsa finora, fin qui. Quindi Chandra Livia Candiani a indicarci che il segreto, secondo noi, secondo la riflessione che ci siamo fatti, ma ci interessa moltissimo sapere cosa ne pensano i nostri ospiti, che come noi hanno fatto una scelta abbastanza radicale in questo senso, a quanto pare è cambiare rotta, perché tu che te ne vai a fare a rifugiarti se la tua intenzione non è anche quella di cambiare qualcosa? Isolarsi? No, grazie, non è questo, non è fare l'eremita, non è assolutamente quello di abbandonare la vita, ma piuttosto l'essere creativi, provare creativamente a trovare delle soluzioni alle cose più banali, scaldarsi uguale fare la legna, mangiare uguale coltivare la terra. Thank you. Stanco della città, l'uomo prese un bastone, una borsa con del pane e cominciò a camminare per boschi, valli e montagne. I rovi ridussero in cenci i suoi vestiti. Il sole gli carbonizzò il volto e le pietre divorarono le suole delle sue scarpe. Lui, senza preoccuparsene, correva dietro alle farfalle, voleva svolazzare come loro. Nonostante l'aspetto miserrimo, aveva un sorriso splendente. Ed era così grande l'allegria che si sprigionava da lui che i moscerini gli finivano contro i denti come erano attratti dalla luce. Una notte il pazzo passò davanti a un tronco cavo in cui viveva un eremita. Vedendolo, l'anziano si inquietò. Quest'uomo cammina senza guardare dove mette i piedi. Il terreno è pieno di trappole, arbusti spinosi, precipizi. Devo salvarlo. Gli offrì la sua lampada. L'eremita gli offrì la sua lampada. Il pazzo cercò di afferrare la fiamma credendo che fosse una farfalla dai colori più intensi delle altre. Si scottò le dita e scagliò la lampada lontano da sé. L'anacoreta, cocciuto come tutti i saggi che vogliono sempre portare a termine quello che hanno iniziato, abbandonò il suo rifugio per camminare davanti al povero folle e illuminargli il cammino. Dopo un po' di tempo si voltò indietro e scoprì costernato che il pazzo non lo seguiva più. Lo trovò che stava affondando in un pantano, preoccupato non tanto di annegare, quanto di salvare le lucciole che stringeva nel pugno. Il vecchio gli tese un ramo perché vi si aggrappasse, lo lavò, lo asciugò e quando ripresero il cammino continuò a fargli luce, però questa volta, invece di voltargli le spalle, decise di camminare all'indietro per non perderlo di vista. Giunsero davanti a un precipizio. Non avendo occhi sulla nuca, l'eremita cadde nell'abisso. Il pazzo, senza perdere il sorriso, corse nei boschi all'inseguimento di un fuoco fatuo. Chiudiamo la rubrica Meraki, consigli per sopravvivere nel deserto culturale e sociale delle aree interne, con la lettura dell'esagramma 26 dell'I Ching, rinominato da Jodorowsky domesticazione. Il suo è proprio un consiglio che potremmo definire una ricetta che possiamo anche fare nostra, direi. Il gesto corrisponda alla vetta su cui regna la tua coscienza. Con la soavità di una brezza manipola gli oggetti quasi fossero farfalle. Rispetta il fuoco del falò, ma anche le sue ceneri. Demolisci il muro che serpeggia tra dentro e fuori. Non osservare quello che accade. Dissolviti nell'accadimento. Non esibire i sentimenti. Dissimula il rullo dei battiti del cuore. Non mostrare quello che sei oggi, ma quello che sarai domani. Non tentare di rivelare quello che sai, insinua soltanto quello che sospetti. Cerca te stesso in quello che credi di non essere. E Gramigno fa special selection. Mi vuole se non ce l'ha da ma tu odiava. Senza sesso non mi cerchi manco per parla. Mi risveglio tra i tuoi capelli rosa, trappola pericolosa. Io volevo coccolarti, ma tu avevi sempre all'università. E rosa, bella schietta e vanitosa. Io mi sono innamorato e tu mi ridi in faccia. La la la la la. Che tu l'ora mangano là, ma un bubo non più grosso tenga, un goppo ancora non dalla braga, a dove liva tu, ma una cosa più tradizionale non si poteva fa, e a macena fora cinema, un film a ci guarda, io volevo fa romantico tramonto, ma tu liva sulla zuguglia, tu liva sulla Io volevo sola zoco. Tu voliva sola zoco. E voleva sola zoco. Tu voliva sola zoco.